GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Investimento mortale di una giovane ricercatrice universitaria a Trieste ha riaperto il dibattito sulla prevenzione degli incidenti di questo tipo nei centri cittadini quasi sempre più pericolosi delle vie periferiche. Sentiremo cosa propone il presidente dell'ACI. Giornata della cultura ebraica, tante le iniziative insieme alle riflessioni sul momento storico, il conflitto israelo-palestinese e i rigurgiti di antisemitismo. In questa edizione spazio poi alle manifestazioni popolari, in primo luogo Friuli Doc e lo sport con il calcio e la Bavisella Summer a Trieste. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni per questa seconda breve edizione domenicale. Dunque, in apertura, dicevamo, ancora l'incidente stradale costato la vita due sere fa a Trieste alla 25enne Marta Gianelli, lombarda, ricercatrice all'Ateneo Giuliano, a ucciderla travolgendola con un SUV che viaggiava ad alta velocità mentre lei stava attraversando sulle strisce pedonali un cinquantenne triestino. Un trend in crescita, quello dei sinistri e delle vittime della strada, denuncia l'ACI, che chiede alle istituzioni misure anche infrastrutturali per contrastare il fenomeno. Sentiamo il presidente di ACI Trieste, Roberto Novacco. Sulle nostre strade urbane della nostra città nel 2024 abbiamo 809 incidenti con 8 morti, è un esempio, può essere anche un incidente e mezzo al giorno solamente nella nostra Riviera Barconana. E questo numero che vi do è in crescita rispetto al 2023, dove parlavamo di 721 incidenti in città e 3 morti. L'incidentalità ha un importantissimo costo anche economico per il paese. Ha un costo economico assolutamente fuori luogo, secondo me, perché stiamo parlando che in Italia nel 2024 è stimata, sono stime fatte da Istat, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizie Locali, Nazionali, attorno all'1% del PIL, perciò sostanzialmente arriviamo addirittura a 26 miliardi. Che cosa si può fare anche a livello infrastrutturale? L'infrastrutturazione va ripensata dalle strisce pedonali, specialmente nella nostra città, dovremmo fare dei dissuasori importanti, dove veramente chi prende ovviamente il volo passando troppo veloce si renderebbe conto che ovviamente non bisogna correre, ma non bisogna andare più di 20-30 all'ora quando si arriva lì. Oggi è la giornata europea della cultura ebraica, numerosi gli appuntamenti in regione, a Gorizia, a Monfalcone, in particolare a Trieste, dove la comunità ebraica ha organizzato una serie di visite al Museo Carlo e Vera Wagner di Via del Monte e alla sinagoga che questa sera ospiterà un concerto. In leggera flessione rispetto agli anni scorsi il numero di visitatori al Tempio. L'antisemitismo è aumentato dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dice il rabbino Alexander Meloni, che non è ottimista per il futuro. Ascoltiamolo. Molti pensano che questo antisemitismo prenderà fine quando il conflitto in Medio Oriente finirà. Questo è un'utopia. Diciamo che è stato liberato una parola antisemita, si è aperto un vaso di Pandora. Purtroppo questo antisemitismo europeo non si fermerà con questa fine di conflitto. Si troverà comunque altre ragioni per escludere il mondo ebraico dalla società europea. Ci sarà una nuova diaspora dell'Europa? Ci sarà non una diaspora, ma effettivamente un'emorragia e un ritorno di una parte delle comunità ebraiche in Israele, ma non solo, anche in altri paesi più accoglienti. In questa città qual è il giudizio delle persone, il pensiero delle persone e l'approccio che hanno? Trieste ha una storia particolare anche dopo guerra sulle questioni delle minoranze che convivono nella città. Si è riuscito fino ad ora a convivere abbastanza bene, anche se negli ultimi tempi si può notare che c'è un aumento di una forma di antisemitismo e dell'espressione di questo antisemitismo. E diventa sempre più difficile a questo punto instaurare un dialogo con queste persone, perché effettivamente avanzare argomenti razionali e storici quando di fronte c'è una persona che ragiona solo con l'emotività e l'emozione non si arriva a niente. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo sulla nostra regione cielo da variabile a nuvoloso, le temperature registrate alle ore 11 a Trieste 21 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo, a Gorizia 21 gradi e mezzo, 21 gradi a Udine, 20 gradi e mezzo a Pordenone, a Tolmezzo 18 gradi, 16 a Forni di Sopra e Torvisio, 14 a Sappada, sul Piancavallo 13 gradi, in quota sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 10 gradi e tornando sulla costa a Grado e Lignano 23 gradi con temperatura del mare in entrambe le località di 23 gradi. Previsione a cura dell'ARPA, nel pomeriggio tempo in miglioramento con cielo poco nuvoloso su pianure, coste, variabili in montagna, dove però non si esclude la possibilità di qualche rovescio, specie sulla fascia orientale. Domani bel tempo con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza, temperature massime in aumento oltre i 25 gradi in pianura. Meteo in sintonia con le aspettative degli operatori e del pubblico di Friuli Doc, che a Udine vive la giornata conclusiva dopo il pienone di ieri. Tra gli appuntamenti più attesi, l'asta dei formaggi, in programma alle 16 alla Loggia del Lionello. I migliori prodotti caseari delle Terre Alte saranno battuti all'incanto in un evento che unisce cultura, gastronomia e solidarietà. Ogni forma racconta una storia, storie di pascoli curati con dedizione, di mandrie condotte tra i prati alpini, di mani esperte che trasformano il latte fresco in un tesoro da custodire e da tramandare. Sono circa 40 oggi le malghe ancora produttive in Friuli Venezia Giulia, veri presidi di biodiversità e di tradizione che rappresentano un patrimonio inestimabile. A Villa Manin di Passariano a Codroipo è in corso la rassegna Nel Giardino del Doge, 21esima edizione, mostra floreale di piante e arredi per il verde con un centinaio di espositori. Si proseguirà fino al tramonto. Tra gli appuntamenti della giornata alle 14.30 l'incontro con Maria Pia De Conto, autrice di Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità, realizzato in collaborazione con il National Biodiversity Future Center, il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità. A Budoia è in corso invece la Festa dei Funghi e dell'Ambiente, edizione 56, il primo di due settimane dedicati alla manifestazione che riprenderà poi sabato prossimo. La pagina dello sport, Udinese in campo alle 15 a Pisa per la terza giornata del massimo campionato. Dopo il successo sull'Inter a San Siro, i friulani cercano il secondo colpo esterno su un campo insidioso. Rugnaic ha a disposizione un organico rinnovato e rafforzato. Ecco cosa ne pensa Lele Adani, commentatore tecnico della RAI. Lele Adani, quest'anno l'Udinese è partita con il piede giusto, un pareggio, una vittoria? Devo dire di sì, secondo me c'è un bello spirito, un bel gioco, con le proprie caratteristiche, fisicità, la capacità di essere vincenti spesso nei duelli, nelle aree di rigore, poi con questa ripartenza anche questa alternativa nell'accompagnare, le mezze ali, le punte che sanno aprire, il capovolgimento di fronte, però sempre questa attitudine a inibire la creatività avversaria e poi però senza rinunciare a ripartire, come ha fatto per esempio molto bene nella vittoria a San Siro. I nuovi innesti con Zaniolo e Zanoli come potranno inserirsi nella manovra costruita da Rugnaic? Beh, per quanto riguarda Zanoli, gamba, tecnica, fisico, quindi diciamo che è un giocatore che va a dare un'ottima alternativa nelle ripartenze sulle corsie laterali. Zaniolo è sempre quel giocatore che ha colpi per sorprenderti, giocate in preparazioni lontano dall'area di rigore, però poi se sta bene fisicamente ed è coinvolto e centrato a livello mentale, è un ragazzo che può tranquillamente risolvere la partita con i colpi. La nazionale ritorna fra poco più di un mese a Udine, in una partita un po' complicata dal punto di vista ambientale. Direi di sì, l'abbiamo già vissuta circa un anno fa, e non sarà facile perché giocare con determinate condizioni mentre il mondo soffre e c'è una guerra in atto crea veramente situazioni difficili per tutti, anche per i ragazzi che scendono in campo, che sono poi i protagonisti. Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. E in C la Triestina in risalita col primo successo stagionale, il 2-1 ottenuto in rimonta sul campo dell'Umezzane, in questo momento avversario diretto sul fondo della classifica. Gli alabardati hanno recuperato 5 dei 7 punti di penalizzazione e sono a 2 lunghezze dai bresciani e a 3 da Propatria e Albino Leffe. Prossimo avversario domenica l'Arzignano Valchiampo sul terreno del Rocco. I risvolti societari, per quanto positivi, non eviteranno una nuova penalizzazione che complicherà ulteriormente il cammino salvezza, ma per ora sul campo la squadra di Marino si sta comportando con dignità e con carattere. Mondiali di atletica a Tokyo, la friulana Giada Carmassi si è qualificata per le semifinali dei 100 ostacoli in programma domani. Nella propria batteria Carmassi ha corso in 12.83, seconda alle spalle dell'olandese Visser, 12.48 e tra le favorite per la vittoria finale. Basket, stasera a Ravenna la finale di Supercoppa della A2, la Gesteco Cividale sfida Rimini per mettere in bacheca il suo primo trofeo. In semifinale i Ducali hanno battuto Forlì, si gioca alle 21 nel precampionato di Serie A. Trieste gioca in amichevole sul campo della Reier Venezia con inizio alle 19. A Cividale del Friuli è in corso la Festa dello Sport organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Si proseguirà fino alle 18.30, scenario le piazze e le vie cittadine. E a Trieste, nell'ambito del Festival Let's Move, questa mattina la Bavisele in edizione prettamente estiva. Ascoltiamo. Cammina, sorridi, partecipa è lo slogan della Bavisella Summer Family Run organizzata da API di Miramar e Trieste Atletica. Tra i tre imperativi, quello più importante è proprio partecipare. L'evento ha trasformato il movimento in solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni dei 350 partecipanti sarà devoluto all'ospedale infantile Burlo Garofolo. Quasi 5 chilometri da affrontare correndo o camminando all'interno del Porto Vecchio. La prestazione in questo caso non contava. Partenza arrivo davanti al centro congressi. Meteo un po' uggioso ma non ha piovuto, con l'esaurirsi degli arrivi è spuntato pure il sole. Grande festa poi per tutti con l'anguriata. L'evento benefico ha coronato un weekend all'insegna dello sport, Let's Move Trieste, che ha registrato tra le varie attività 3.000 iscritti. Manifestazione che termina stasera con la festa di chiusura e DJ set fino alle 22.30. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gerlinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. 12:27 in questo istante, prossima edizione alle 18.30. Grazie per il vostro ascolto e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.